E ancora un piccolo viaggio nella musica non troppo inaudita. Restiamo in Inghilterra, restiamo comunque negli anni 80, bellissimi anni 80 anche per quanto riguarda questo tipo di rock melodico. E andiamo ad ascoltarci uno dei capolavori dei Moody Blues, alle tastiere naturalmente il nostro amico Patrick Moraz, che presto reintervisteremo, e questi sono Moody Blues. This is Patrick Mars, and you are listening to Mystery Tour. Every rising sun is good. Buonasera professore. Ed eccoci qui. Rieccoci dopo rieccoci. Lunga assenza giustificata dai per... da impegni oltre proprio dall'altra parte del mondo. Esperienza canadese di DJ Evil, poi a Vancouver che non ha più voce, un capitolo ve ne parlerà dai strada facendo, e si torna e ci si trova ancora immersi proprio nella nel pattume. Sì non ecco. Cioè, visto che già si notano poche lievissime differenze tra i paesi civili e questa fogna esatto di italiaccia e Berlusconcia, appunto si torna appunto da un posto civile e si torna in mezzo alla monnezza, si torna nel bunga bunga oppure nelle liti furibonde tra la Carfagna e la Mussolini, causa Bocchino. Da quale? In che senso? Nel senso no. Che la Mussolini ha aggredito la Carfagna in transatlantico e sì. Ha scattato una foto perché la Carfagna parlava con Bocchino. Ah, non faceva. Potrebbe essere tra tutte e due, perché insomma chi li fa meglio tra queste due Bocchi un po'. In effetti questa notizia la toglie di bocca e anche qua si va avanti. Sì, oppure Berlusconcio che spende decine di migliaia di euro per riattaccare i piselli alle statue romane. Mamma mia, che sconcezze. E invece tra le pieghe del trash globalizzato ci muoviamo tra la cucina e i servizi igienici. Tra l'altro, ci dica. Vabbè, cominciamo con la cucina perché insomma. Prima si va in cucina, sì, e poi ai servizi, giustamente. Giustamente. Un po' di sana cronologia. La notizia sconcertante giunge da Londra. Una nuova specie di lucertola è stata scoperta, puntini puntini, nel piatto di un ristorante vietnamita. Cioè, si mangiano una specie rara di lucertola. Beh, lasciando a bocca aperta non solo i commensali, ma anche a bocca chiusa, direi. Ma sapete, gli erpetologi, così apprendiamo un nuovo termine, gli erpetologi. I lucertologi. Gli studiosi delle lucertole. Voglio diventare erpetologo. Lucerto. Erpetologo. È stato identificato sul menu addirittura di un locale del delta del Mekong, dove è servito alla griglia con contorno di insalata. Mamma mia. Poi non mi chiedere qual è il nome scientifico, chiedimelo. Qual è il nome scientifico? Leiolepis Ngovantini. Beh, può darsi, sì. Usano molto NG. Ngovantini. Veramente meno male che appunto in realtà abbiamo detto Italia, ma anche grazie alle escursioni nell'immondizia del nostro Federico. Ah beh, Ngong no, perché no, a parte le a parte sì, cioè, è vero, c'è anche la sua amorosa che si chiama Ling Ngong, no. Ma che sta dicendo, no, professore? È completamente impazzito. Io non lo so. Bisogna un defibrillatore portatile per il professore. No, ci sta portando un sacco di notizie da tutto il mondo. Australia, Germania e Svizzera, insomma, dai, tre posti. Sì, dalla Germania magari il trash ce lo aspettiamo anche, ma siamo in fondo anche dall'Australia. Allora, rinviato a giudizio per un tatuaggio osceno. Al posto i due draghi, simboli di Yin e di Yang, aveva sulla schiena un enorme pene e due... uno scherzaccio che gli è costato un rinvio a giudizio per lesioni aggravate e violazione delle leggi di salute pubblica. Matthew Francis Brady è comparso davanti a un tribunale di Ipswich in Australia per aver convinto Chester Ives a farsi tatuare sulla schiena due draghi con i simboli di Yin e di Yang. Quando Chester è tornato a casa nello stato del Queensland, ha mostrato il tatuaggio alla sua fidanzata e ha scoperto che sulla schiena aveva un pene stilizzato, tra l'altro c'è anche la foto, sotto il quale c'era una scritta oscena e non si dice quale. La polizia ha riferito che un altro uomo era presente mentre Brady, un tatuatore dilettante, eseguiva l'opera e aveva assicurato alla vittima che il disegno era venuto proprio bene. E vabbè, comunque adesso 9 mesi di trattamenti e migliaia di dollari australiani per farsi rimuovere questo tatuaggio. Non si capisce la motivazione di questo scherzo. No, non c'è scritto. La cosa più interessante, il Corriere non ce la rivela. Accidenti. Ai ai ai. Uno scherzo da preti. Ce dica. Da Tokyo, Ancora genere cool inario. Rito funebre per granchi, prima delle festività. Ma. Un vero rito funebre per commemorare in anticipo, con tanto di cerimonia buddista, la prossima dipartita, fra virgolette, di centinaia di migliaia di granchi. Perché a quanto pare il granchio è il piatto preferito dei giapponesi per le tradizionali festività di fine anno. Quindi, siccome si profila un'ecatombe, prima che ancora che ciò avvenga, i giapponesi ritengono necessario praticare questo rito religioso. Perché insomma, sono pietosi. Qui abbiamo l'agnello. E quindi questo è successo al tempio di Gyoku Ozen. Di Sapporo, nell'isola di Hokkaido, dove si è tenuta la 26esima edizione annuale del servizio commemorativo per granchi. Hai capito? Fa piacere poi vedere che lei sta leggendo delle notizie trash stampate sul foglio della tariffa di igiene ambientale 2011, quello che il comune manda per la raccolta rifiuti. Giustamente, ha fatto un uso intelligente. Giustamente. E vabbè, e quindi ci tocca liberarci una magnifica risciacquata. Professore, ha sentito? Veramente una risciacquata di quelle toste. In effetti. Ma professore, adesso noi ci spostiamo invece in quel di New York negli anni 60 per ascoltarci qualcosa di psichedelico. Qualcosa di psichedelico, ma non di psichedelico come i nostri amati, comunque Jefferson Airplane, Grateful Dead, eccetera eccetera. Quindi la West Coast e la positività di questa costa americana, bensì la East Coast, quindi New York, e una psichedelia un bel po' più, come dire, tirata in tutti i sensi forse. E noi ci ascoltiamo un estratto del capolavoro di Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On. Errata, corrige. Parliamo di Eleanor Rigby. divertivano i nostri Vanilla Fudge a dissacrare i classici in maniera così psichedelica, o Ticket to Ride per esempio dei Beatles, o Eleanor Rigby appunto, She's Not There, Bang Bang, insomma vi consigliamo questo The Season of the Witch, The Season of the Witch di Donovan. Di Donovan, che appunto era un pezzo acustico, soft, dolcissimo, viene stravolto appunto da questi maestri della psichedelia più uptight, come si direbbe, più nervosa, psichedelia newyorkese, quindi Vanilla Fudge. Torniamo a Mondo Trash. Cosa? Ce n'è. Non abbiamo mai paura di restare senza, diciamo. Ah no, beh. Ci dica. Per la serie dei vecchietti arzilli. Ah beh, quello è un filone inesauribile. Inesauribile. E proviene da Imperia, questo lancio dell'Ansa. E ci parla di un uomo di 80 anni di Sanremo che si è miracolosamente salvato dopo essere caduto dal quinto piano dell'ospedale di Imperia dove era ricoverato. Ma dai. Le cause della caduta sono tuttora in fase di accertamento. Ma probabilmente legate a un incidente, come fa uno a cadere dal quinto piano di un ospedale? Sì. Che incidente può essere? Che lo portavano con la barella, hanno sbattuto contro il davanzale, cioè non si capisce. Ha mollato la barella a un certo punto. L'anziano, che ha subito lesioni ancora in corso di valutazione da parte dei medici, non sarebbe in pericolo di vita. La sua caduta sarebbe stata frenata da una tettoia situata qualche piano più in basso. Anche la sintassi un po', diciamo. Sì, anche, esatto, perché dovrebbe dire non sarebbe in pericolo di vita in quanto la sua caduta sarebbe stata frenata, no? Sì, esatto. Ma sì. Poi la motivazione, quale incidente si può immaginare che provochi la caduta di uno dal quinto piano? Boh. Sì, no, la dinamica in effetti. O forse si voleva uccidere, cioè mi pare che è l'unica spiegazione. O ce l'hanno buttato come a Pinelli, Lo hanno suicidato. Bah. Mentre invece in Svizzera, che ogni tanto ci regala un po' di immondizia, ci manda una notizia Federico, candidato giudice conservatore Ronald Lutz, 48 anni, di notte fa il porno rocker. A Berna, l'elezione del nuovo giudice supplente del tribunale distrettuale non era una notizia particolarmente interessante al fuori del borgo svizzero, il cui nome è legato a una celebre abbazia, ovviamente. Ma poi si è scoperto che l'unico candidato in lizza, Ronald Lutz del partito conservatore dell'UCD, ha un passatempo molto particolare. Padre di famiglia serioso, imprenditore di giorno, porno rocker di notte. Con la sua band ama esibirsi praticamente nudo, col solo tanga addosso. Praticamente ci sono anche le foto. Il gruppo si chiama Tite Buaba Stone. Non sono piaciuti neppure i testi in dialetto delle canzoni, che parlano di sesso. Allora, di sesso, sesso di gruppo, abusi su minori, consumo di alcol e prostituzione. Madonna. Beh, proprio un conservatore. Il nuovo Gigi Allin. Il discorso è che quel posto di giudice non era molto ambito, nessuno si era messo in lista. E quindi si è messo in lista. Solo lui gestisce una società di informatica, ma nel tempo libero è alla chitarra e al microfono con la sua band di rocchettari. Le immagini delle performance sceniche presenti sul web ci sono chiaramente. Lasciano poco spazio all'immaginazione. I quattro componenti del complesso musicale sono vestiti con un minuscolo tanga o con una calza per nascondere le parti intime, peraltro copiando spudoratamente i Red Hot Chili Peppers. E quindi, poi ci sono le sue repliche. A quanto sembra la località di Eisenlenlo non ha studiato sufficiente i candidati da mettere in lista, ha spiegato Judith Ubersa, presidente cantonale dell'UDC, che prima era UCD, adesso qua UDC, anche il Corriere non è precisissimo. E lui dice, non mi volete, non votatemi. Sul palco si fa chiamare Shy Boy. Il politico, tra l'altro, aveva ammesso precedentemente, anche qua Federico ci aveva già resi edotti della questione, di organizzare senza prendervi parte delle gangbang, incontri erotici a cui partecipano diversi uomini e una donna. però lui non partecipava né come uomo né come donna. Ci dica, professore. Niente, l'ANSA da ultimo è molto attratta dai servizi di toilette, servizi bagni pubblici. Vabbè. E quindi abbiamo ben due notizie in una settimana, una proveniente da Parigi e una da Mosca, che riguardano questi peraltro indispensabili servizi. Da Parigi apprendiamo che addirittura una giornata mondiale sarà dedicata alle toilette. Dopo la giornata mondiale della gentilezza il 13 novembre e della risata il 2 maggio nasce la giornata mondiale delle toilette. Ma com'è possibile? Si celebra il 19 novembre, quindi si è celebrata, mannaggia, vedi, a saperlo, non lo sapevamo. Poi chissà che cosa è successo. Ed è stata lanciata da una nota marca francese di WC di lusso. Un'occasione di ricordare che 2,5 miliardi di persone nel mondo, attenzione che qui scatta il calambur, 2 miliardi e mezzo di persone, lo sapevate voi, non hanno accesso al... No, come la metti giù, dai? No, alla toilette. Molto... Io però l'avrei sfruttata fino in fondo. Ma anche perché l'ANSA spesso è stata... Dovrei farmi assumere, diciamo. È stata anche scurrile, quindi... Sì, è vero. Potevano anche lasciarsi andare anche stavolta. Non hanno accesso al cesso. Vabbè. E poi qual è il... Invece a Mosca proprio non hanno accesso, perché sembra che sia molto deteriore, si sia deteriorata molto la qualità dei servizi dei bagni pubblici a Mosca. È molto discutibile. Sono vecchi, scarsi e mancano di adeguate strutture. Cosa vuol dire strutture? Così, per riparare alla propria reputazione, il presidente dell'associazione russa dei produttori di sanità, tutta una produttori di sanitari di Russia, ha proposto di proclamare il 9 aprile giornata russa dei bagni. Cioè, praticamente sia in Francia sia in Russia hanno proclamato una giornata, però non coincidono nella stessa data, cioè sono in antagonismo, come il Festival di Venezia cinematografico e il Festival di Roma, o come l'autodromo di Monza e quello di Roma che vogliono fare. Quindi sono due giornate e saremo dedicate. E saremo sempre nell'imbarazzo, il caso di dire, esatto, se qua. Partecipare all'uno o all'altro o se mandarli tutti a cagare. Dove peraltro andrebbero volentieri. L'opzione migliore. Quindi meglio lo show. Cioè, quando ce vuole, ce vuole. Quando e qua ci vuole. Allora, come presentare dopo una cosa del genere una sublimità? Ma noi siamo acrobati. Noi siamo acrobati. Quindi dalle stalle alle stelle, esatto, viceversa. Torniamo alle stelle, dai, torniamo alle stelle. Con di solito noi parliamo o di vi facciamo ascoltare o colonne sonore oppure vi facciamo ascoltare anche musica classica. Qui rimaniamo nell'ambito della colonna sonora. Non è una vera e propria colonna sonora, ma questa musica può rimandare alla colonna sonora di due film. Ovviamente la colonna sonora della biografia di Edith Piaf, che insomma è un capolavoro, visto che parliamo di Edith Piaf e di un suo grande capolavoro, e poi anche la colonna sonora di quella meraviglia di Christopher Nolan, che è Inception, dove appunto è presente questa magnifica Non je ne regrette rien, appunto. Poi tra l'altro c'è anche il link della Cotillard, questa grande attrice che interpreta sia una parte nel film di Christopher Nolan Inception, sia la parte proprio di Edith Piaf nel film biografia. Noi ci ascoltiamo questo bellissimo capolavoro di Edith. Rien, c'est payé. mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi. Allora, professore, misteri, ci illustri su un mistero questa sera, insomma, dopo tutta questa immondizia. Beh, mistero è anche il titolo di una trasmissione di Italia 1 che l'altro ieri a mezzanotte ha parlato di Secaria, loro dicono Secaraia, Sitchin, è un po' difficile sapere come si deve pronunciare, perché Zeccaria è un termine, immagino, biblico. Lui era ebreo. E Zaccaria era il padre di Giuseppe, di Giovanni. Zaccaria era anziano e sua moglie Elisabetta pure. Sono i genitori, cioè i due miracoli, la nascita da una vergine, il Battista, esatto, sì, cioè, la donna Maria, vergine vecchia, ultravecchia, esatto. E la impubere, sono, esatto, i due miracoli. Zaccaria dovrebbe essere il marito di Elisabetta, il padre di Battista. Sì, sì, sì, sì, sì. E quindi, perché lui di famiglia ebraica, nato a Baku in Azerbaijan, e poi passato per Londra e approdato negli States, dove nel corso dei decenni ha portato avanti ricerche molto impegnate, molto, certo, proficue, soprattutto sulla mitologia mesopotamica, sumera, babilonese, assira, e anche ricerche sul campo per quanto riguarda le più enigmatiche strutture archeologiche, i siti archeologici più controversi che esistono al mondo. E quindi veramente un grande ricercatore, un grande scrittore, e seguito da milioni e milioni di lettori, e chiaramente, in quanto prospetta delle ipotesi alternative a quelle universalmente accettate dalla comunità scientifica ufficiale, e quindi, diciamo, non mai riconosciuto, mai apprezzato e generalmente attaccato, anche quando in effetti un merito almeno gli va assolutamente ascritto, perché lui è stato quello che ha indirizzato le ricerche riguardanti le mitologie antiche, facendoci capire come gran parte dei miti e delle leggende dell'Antico Testamento sia di derivazione sumera. E lui spiega anche perché, spiega appunto che Abramo, come figlio di Tera, era addirittura un sacerdote del dio Enlil, della città sacra dei Sumeri, Nippur. Certo. Quindi erano dei fuoriusciti dell'ultimo periodo dell'ultimo impero dei Sumeri. quelli che poi danno praticamente origine al popolo ebraico, e quindi poi per generazioni si tramandarono oralmente ciò che poi successivamente, solo alla fine dell'Ottocento, è stato ritrovato nelle tavolette dei Sumeri essere in qualche modo l'originale di ciò che veniva tramandato e che poi è stato trascritto nella Bibbia. Solo molto molto tempo dopo è stato messo per iscritto solo, e beh, poi per quello che abbiamo noi, insomma, si tratta di testi non molto distanti dal periodo della nascita di Gesù Cristo, quindi sono di migliaia di anni più antiche queste tavolette da cui proveniva quella sapienza, diciamo così, che è stata trasmessa oralmente per generazioni e poi ha trovato una nuova scrittura nei testi degli ebrei. E quindi almeno per questa scoperta fondamentale gli andrebbero riconosciuti dei meriti che non gli vengono riconosciuti neanche ora che è morto, all'età invidiabile comunque di 88 anni e dopo una vita comunque piena di soddisfazioni e di successi, soprattutto per la grandissima ammirazione che gli è sempre stata tributata, ecco, soprattutto da coloro che l'hanno letto effettivamente, che hanno seguito un po' i suoi ragionamenti e che hanno sempre considerato che lui è uno dei pochissimi che era in grado di leggere le tavolette, i cuneiformi, e quindi di anche cercare un'interpretazione che non fosse quella più banale, più scontata, e che oltre a essere banale e scontata, quella ufficiale, spesso anche lacunosa, perché non riesce proprio a dare spiegazioni di una serie di passaggi. E Sitchin diceva in effetti che questi Sumeri derivavano tutta la loro cultura dagli Anunnaki, cioè da extraterrestri che provenienti dal pianeta eccentrico Nibiru, che quindi avrebbero portato la sapienza e avrebbero addirittura creato il genere umano mediante clonazione. Tutto questo è stato riportato nella trasmissione Mistero di venerdì, dove non solo è stata proposta, credo, per la prima volta in Italia l'ultima intervista di Segaraia, è stata un po' il suo testamento spirituale. Quindi questa volta dobbiamo veramente dare merito, riconoscere il merito di questa rete televisiva Italia 1 e di questo programma Mistero, il suo conduttore Raz Degan, di aver non solo fatto, diciamo così, uno scoop. Sono stati i soli a dare conto della morte, comunque un avvenimento importante, insomma, no? Di cui gli altri hanno snobbato, sia la Rai sia le altre reti televisive, sia i quotidiani, insomma, hanno andato soltanto in trafiletto, semmai. E quello che c'è di più interessante è che i conduttori del programma questa volta non hanno detto, come è capitato altre volte, vabbè, adesso vi facciamo ascoltare questo visionario e poi giudicate voi, ma apparivano essi stessi davvero convinti che abbia comunque una sua validità l'ipotesi di Sitchin che il genere umano sia di derivazione extraterrestre e quindi non attraverso un'evoluzione lineare avvenuta su questo pianeta da specie di primati antropomorfi che via via acquisiscono competenze sempre più elaborate e sofisticate, insomma, mantenendo peraltro poi un'attitudine che è assolutamente più brutale di quella degli animali medesimi, insomma. Certo. Bene, allora noi vi rimandiamo sempre, appunto, poi a dei riferimenti, potete mettere appunto internet Sitchin Anunnaki, sì, poi è molto... Volevo parlare anche dell'ultimo effettivamente libro che... Ma magari lo rimandiamo a domenica prossima. Però su questo francamente ancora non sono riuscito a leggerlo. Questo si intitola Quando i giganti abitavano la Terra. Per chi giganti. E quindi anche il tema dei giganti è estremamente interessante. Anche lì, razzolando un po' in internet, si trovano soprattutto un articolo che forse è il meno, come si può dire, cioè quello un po' più credibile, perché insomma è stato anche pubblicato su giornali, su magazine indiani, e un ritrovamento è avvenuto nell'India del Nord e di cui ha parlato anche un servizio di National Geographic, del team indiano di National Geographic. Però anche lì abbiamo un cover up, perché la zona, questo sito è praticamente all'interno di un'area militare e quindi non è possibile andare a controllare come vogliono i parametri, giustamente, insomma, della scienza moderna, di poter controllare in loco, avendo dei dubbi, delle perplessità, che si tratti davvero di i reperti fossili. Comunque è uno scheletro che è stato rinvenuto, sarebbe stato rinvenuto, lungo, fossile lungo 5 metri, ecco, quindi una cosa insomma enorme. Va bene, allora argomento che appunto andremo ad analizzare nelle prossime puntate. Nessuna novità, nuovo disco di Ozzy Osbourne, che è sempre in forma nonostante le apparenze, a 62 anni ci regala qualcosa di potente. Qui con Adam Wakeman, figlio di Rick Wakeman, alle tastiere, questa è Digging Me Down, tratto dall'ultimo album The Scream, Ozzy Osbourne. Thank you. Ozzy ci stupisce ancora. E ci spostiamo invece adesso in Svezia per i nostri vecchi amici Tiamat, dal 1997, questa è Cold Seed. Sentiamo domenica prossima, ci ascoltiamo un brano di un gruppo svizzero fondamentale, chiaramente parliamo dei Samael, era il 1995, questa è The Ones Who Came Before, a domenica prossima.